adesso che ci avete dato un quadro, che in genere è quello che manca, no? Che ci avete dato un quadro, una mappa secondo me non è soltanto un percorso geografico, è anche un po' un percorso psichico, un percorso di come ti senti in un luogo e di come ti potresti sentire in un luogo, no? E secondo me è importante, perché il vino è espressione anche di questo. Allora, Daniele, volevo chiederti, tu ci hai portato qui questo vino che si chiama Juan, che è il primo vino che voi avete fatto e che continuate a fare. Ecco, io di questo vino, proprio a partire dalla bottiglia, però vorrei fare un salto indietro e tornare a quello di cui abbiamo parlato adesso, cioè la terra. Raccontaci un po' il vigneto da cui viene questo vino, e raccontaci anche che cosa fate in questo vigneto, quindi come lo trattate, se fate dei trattamenti, se è inerbito, non è inerbito, se lo diserbate. Raccontaci un po' tutto quello che c'è anche poi nell'autocertificazione che avete compilato per la Terra Trema. Allora, il vino che abbiamo portato si chiama Juan, è per noi il vino più rappresentativo ed è, come diceva Simonetta, il primo vino che abbiamo fatto. Noi abbiamo iniziato, non so, a metà anni 90 più o meno, ad aiutare un signor anziano che era amico di famiglia. Noi non arriviamo neanche da una zona collinare, la nostra famiglia non aveva alcuna proprietà agricola, vivevo in campagna ma lontano dai vigneti. Però per qualche motivo ci siamo appassionati, abbiamo provato a saltare il fosso. Per qualche motivo sarebbe interessante approfondire. Però. Non è ben chiaro, mio fratello, che è più piccolo, 8 anni meno di me, quando era un ragazzino delle medie così, ha iniziato a essere interessato al vino, ma di punto in bianco, quasi un richiamo ancestrale che non sappiamo da dove arrivasse. Abbiamo iniziato ad aiutare questa persona che aveva una piccola produzione di vino sfuso, per il suo autoconsumo e per una piccola vendita. In tutto aveva quella che viene definita da noi una giornata di vigna, quindi un po' più di un terzo di un ettaro, ed erano le vigne piccole che aveva intorno a casa. Noi abbiamo iniziato ad aiutarlo, poi ad un certo punto lui è morto, aveva più di 90 anni, molto sereno, contento di aver sempre vissuto facendo quello che gli piaceva, e noi abbiamo deciso che il nostro primo vino doveva essere più o meno il suo stesso vino, però fatto da un'altra persona, perché il luogo è lo stesso e siamo noi arrivati dopo di lui, e però abbiamo cercato di rispecchiare semplicemente quello che c'era già. E quindi abbiamo continuato a coltivare quelle stesse 6 piccole vigne che lui vinificava, hanno continuato a essere vinificate e diventare Juan ancora adesso, che sono passati 10 anni. In quelle vigne come vengono trattate? Cosa fate? Raccontaci tutto, potature. Sì, quelle vigne sono tutte vigne molto vecchie, la più vecchia è stata piantata, a quanto si ricordava a lui, attorno al 1910. E quindi sono vigne... Parliamo di più di 100 anni fa. Sì, più di 100 anni fa. La vigna più vecchia ha più di 100 anni. Alcune sono a piede franco perché sono state diffuse per propaggine, ovvero affondando nel terreno un ramo lungo dell'anno prima. A piede franco, non so se tutti sapete, significa che sono sopravvissute sostanzialmente alla fillossera, quindi sono dei vitigni molto, molto antichi che sono sopravvissuti integri alla fillossera, non hanno avuto bisogno di innesti. Porta innesto, perché da noi il terreno è molto sabbioso e quindi non ha trovato facilità a diffondersi questa malattia un bel po' di decenni fa. E niente, sono vigne tutte diverse, nel senso che è difficile leggerne una continuità. Una vendemmia è un lavoro di acceso spento continuo, perché ci sono 30-40 varietà diverse in queste sei vigne, e non sono omogenee, non c'è una vigna in cui è tutto Nebbiolo e un'altra. E quindi dobbiamo raccogliere l'uva mano a mano che matura, con tante vendemmie scalari, e a livello di gestione del vigneto cerchiamo di intervenire il meno possibile. La potatura era e continua ad essere a guaiot, semplice. Noi tendiamo a fare una potatura più corta rispetto a quella che si faceva un tempo. Le vigne sono naturalmente inerbite, in modo, temo, abbastanza simile a quello che raccontava. Perché vuol dire che voi non usate nessun tipo di erbicida? No, nessun tipo di... è quanto di più lontano ci sia dalle nostre intenzioni. Raccogliamo a volte delle erbe selvatiche che ci interessano, e quello è l'inizio del taglio dell'erba, in realtà raccogliere qualche erba selvatica, e poi tagliamo l'erba una volta durante la stagione produttiva, in modo tale da avere... Ma cosa serve l'erba? Perché non tagliate l'erba? Ci sono delle bellissime collinette nella zona rinomatissima della Borgogna, con queste belle vignette, tutte belle, rase. Ma perché non tagliate l'erba? Non tagliamo l'erba perché l'erba controlla il microclima oltre che il microambiente. Il microambiente significa che la presenza di insetti, per la gran parte proficui, qualcuno può essere anche noioso, però sul numero ce n'è molti di più che fanno del buono. E poi perché l'erba controlla che non ci sia un calore eccessivo che sale dal terreno, perché noi, pur essendo a nord, abbiamo il problema di dover controllare la maturazione per non trovarci con vini con eccessi d'alcol, come capita purtroppo spesso ultimamente. E ci sono dei lontani problemi sanitari quando l'erba arriva all'altezza del grappolo, così, però in quel momento noi per la maturazione andiamo a tagliare l'erba una volta e torna poi ad essere alta più o meno 30 centimetri per la vendemmia, ma niente da disturbare chi andrà poi a raccogliere l'uva. E per i trattamenti cosiddetti fitosanitari, ovvero contro le malattie, ma cerchiamo di farne il meno possibile. Cerchiamo di essere il più presenti possibile in vigna nella stagione in cui il rischio è più alto, ovvero quando da noi più o meno a maggio piove praticamente tutti i giorni. E questo è un vantaggio perché non c'è il momento per fare il trattamento, quindi uno spera che non si ammali nel frattempo. Poi dopo la primavera la stagione diventa più ragionevole, con i normali trattamenti di zolfo e di rame. Rame e zolfo, quindi. Sì. Altri diciamo trattamenti che non nelle ne stagioni, fate. Nelle stagioni più terribili, per sicurezza, diverse volte abbiamo fatto un trattamento sistemico contro la peronospora, una volta all'anno, più per eccesso di prudenza e perché siamo ancora giovani in vigneto. Quando poi avremo più confidenza ancora con il posto dove stiamo, probabilmente sapremo fino a dove possiamo spingerci senza dare nulla.